La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 57 secondi, siamo in diretta qui dagli studi di Milano, di Radio 24, grazie per l'ascolto in diretta e in podcast, e vado direttamente al punto di del giorno per consentirvi di telefonare e intervenire in diretta all'800240024. Vi dico subito che oggi ho deciso di staccare un secondo dalla cronaca quotidiana, gli sviluppi del dibattito sulla legge di stabilità, cosa succede a Marino a Roma, cosa succede di questa notizia che è esplosa ieri sera e stanotte da parte del quotidiano nazionale, il cancro al Papa, la smentita, non si capisce bene, il quotidiano nazionale che però insiste e devo dire nel Vaticano si capisce solo anche dalle ultime note che c'è un intento, viene attribuito un intento manipolatorio a questa notizia che non mi appare una vera e propria smentita per così dire, però ecco vediamo, perché di questo non sarebbe per così dire troppo azzardare ipotesi, sicuramente è un caso giornalistico molto molto rilevante che sta attirando l'attenzione su tutto il mondo, da tutto il mondo. Io non credo che, per come conosco insomma i colleghi del il direttore del quotidiano nazionale, si siano inventati una cosa di questo genere, perché è ovvio che ti esponi a una cosa mondiale, però capiremo. No, io invece oggi ho deciso di riflettere insieme a voi su un punto che mi sembra aleggiare nell'aria e che io non ho capito e che non è proprio così secondario. Vi ricordo che il 6 ottobre, cioè oramai 2 settimane e mezzo fa, il primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera, in prima pagina annuncia che cominciano i bombardamenti italiani in Iraq attraverso i Tornado. Poi in realtà non è successo niente, si è rivelata una notizia, insomma, giornalisticamente un po' azzardata, perché in primis dava per scontato che i nostri Tornado lì abbiano le armi, in poche ore possono intervenire, in realtà chi si occupa della faccenda sa che non è così. Nel frattempo sono passate settimane, si è capito dopo pochi giorni che sembrava un teaser per così dire, una cosa che serviva a scaldare l'atmosfera internazionale, perché si dava per scontato che fosse ormai prossimo, nel giro di un paio di settimane, l'accordo tra i due governi delle diverse fazioni in Libia, cioè quello di Tobruk e quello di Tripoli, con il delegato delle Nazioni Unite che stava lavorando a questo, il cui mandato è in scadenza perché poi viene poi sostituito da un tedesco, per far scattare subito dopo una missione internazionale, anche militare, di presenza militare sul suolo e nelle acque libiche, a cui l'Italia si era candidata in sede di Nazioni Unite al coordinamento. E anche qui questa cosa è aleggiata senza che si capisse bene, ma che cosa vuol dire davvero per l'Italia? Quanti uomini, quanti mezzi, esponendosi a che conseguenze? Dopodiché che cosa capita? Capita che ieri questo accordo tra Tobruk e Tripoli di Bernardino León, il delegato delle Nazioni Unite, che era stato annunciato 2 giorni prima, pare che sia saltato, e quindi le prospettive di questa missione guidata dall'Italia con mezzi militari in Libia forse si allontanano, se non che oggi è in corso, da oggi, la più grande manovra aeronavale nel Mediterraneo da molti anni a questa parte. Nel frattempo ad Aleppo 70.000 civili in fuga perché con la copertura aerea russa i siriani di Assad tentano di rifarsi sotto. Insomma, in questo scenario, ma l'Italia davvero che cosa sta facendo e che cosa vuole fare, con quale utilizzo ed esposizione dei propri militari e con quali conseguenze possibili? Siamo davvero convinti che ci sia una riflessione attenta su tutto questo? Ecco, questo è il mio interrogativo. Allora, ho deciso innanzitutto di buttarvela lì per capire se voi prendereste a cuor leggero l'idea che l'Italia si può trovare alla testa del coordinamento militare di una missione in Libia, se pensate che sia giusto che noi con i 4 Tornado, più che altro per dare un segnale al mondo, ci mettiamo a bombardare anche noi in un quadro in cui la presenza russa ha cambiato del tutto i connotati della faccenda. È evidente che Hamas lancia gli attacchi contro Israele perché tutto è cambiato lì nel giro di poche settimane, perché Putin, approfittando della debolezza americana, è sul terreno, stivale sul terreno con gli aerei in aria. Detto tutto questo, ma l'Italia che riflessione fa in pubblico su tutte queste cose? Allora, ne parliamo di tutte queste faccende, un po' confuse, ma sono tutte quelle che sono di fronte ai nostri occhi, con il direttore della rivista Italiana Difesa, Pietro Batacchi. Buon pomeriggio e grazie Pietro. Buon pomeriggio a tutti e grazie a te Oscar. Allora, io naturalmente sono stato confusionario e generalista nel mettere insieme tutte le tessere di questa faccenda, però inizio a chiederti la prima cosa giornalistica. Com'è che il primo giornale italiano, secondo te, due settimane e mezzo fa annuncia il bombardamento, oramai in questione di ore, dei tornado in Iraq, e poi si scopre che non è vero niente. Guarda, io credo che in realtà ci sia da fare una riflessione, ovvero gli americani, gli Stati Uniti, l'amministrazione Obama ci stanno premendo sulla questione ormai da mesi, cioè ci stanno chiedendo da mesi di estendere la missione dei nostri cacciabombardieri Tornado in Kuwait ad operazioni anche di attacco a suolo e di bombardamento, perché questi adesso compiono esclusivamente missioni di sorveglianza, ricognizione del territorio e così via. Quindi diciamo un elemento empirico c'è una pressione forte da parte dell'amministrazione Obama. Bisogna vedere se a questa pressione corrisponde anche la volontà politica da parte del governo italiano di impegnarsi in una missione militarmente più incisiva in Iraq. La mia sensazione è che soprattutto il Presidente del Consiglio Renzi non abbia tutta questa intenzione di spendersi in una postura militarmente più aggressiva in Iraq, perché oggettivamente sarebbe anche quantomeno difficile andare dall'opinione pubblica e dire guardate, noi adesso bombardiamo ISIS in Iraq, ma non lo facciamo in Libia a pochi chilometri dalle coste di casa nostra, peraltro da dove vengono gli immigrati. Ecco. Quindi io onestamente, se in qualche misura conosco un po' Renzi, anche perché è un mio concittadino, onestamente io non credo abbia tutta questa voglia. Anche perché nel frattempo poi proprio l'altro ieri ha fatto una battuta secca come non gli capitava, perché su queste vicende di solito è più prudente, non si trovano sue dichiarazioni con la stessa decisione e talvolta avventatezza con cui si pronuncia su tante altre materie, però l'altro ieri ha detto i miei auguri a chi crede che in Siria le cose si risolvono con i bombardamenti e così via. Io ci ho colto un immediato eco che era riferita anche all'ipotesi che l'Italia si mettesse a propria volta a bombardare in Iraq, o no? Assolutamente sì, credo di essere d'accordo con te, salvo che nel Consiglio Supremo di Difesa, che si terrà, se non sbaglio, tra 20 minuti bisognerà vedere quale sarà anche la linea del Quirinale. Che... Perché con ogni probabilità il Consiglio Supremo di Difesa, che è convocato oggi il 17, proprio di questo e dell'intervento in Libia si parla. Assolutamente sì, tu mi insegni che tradizionalmente il Quirinale è molto sensibile ai desiderata e alla volontà politica dell'amministrazione statunitense e dell'amministrazione americana. Anche questo presidente, secondo te, anche con Mattarella? Questa è in realtà una bella domanda. Se fosse perché io posso dire la verità, lo direi più per Napolitano che per Mattarella. Esattamente, guarda, sono d'accordo con te, fosse stato il vecchio presidente anch'io mi sarei sbilanciato di più. Questo onestamente ancora non sono riuscito a decifrarlo. Non lo sappiamo, perché Mattarella non si è ancora ben guardato dal fare interventi, diciamo, un po' taglienti, in maniera tale da svelare che cosa davvero pensa. Però io mi aspetterei che Mattarella non sia tanto proclive all'idea, ce lo chiede l'America di bombardare in Iraq, quindi facciamolo, non me lo aspetterei. Sì, poi... è possibile, per cui anche se in, diciamo, da questo punto di vista si dovesse andare anche ad un congelamento della questione, io non mi stupirei, insomma, in sostanza, posto che comunque Renzi avrebbe il suo bel da fare per far digerire anche la minoranza del PD. Sì, ma certo, sarebbe un altro argomento oltre a un intervento di bombardamento in Iraq. Si direbbe per l'ennesima volta che fa la parte della destra, per così dire. Ma invece, perdona, spiegaci un pochino in realtà, alla luce della conoscenza che avete voi, insomma, rivista della difesa e dal mio punto di vista da moltissimo tempo il miglior organo per approfondire e capire, anche se non si è dei tecnici, le questioni della sicurezza della difesa italiana e internazionale, ma questa missione in Libia che viene continuamente evocata nel caso in cui si trovasse un accordo per un governo nazionale, in realtà che cosa diavolo potrebbe voler dire come coinvolgimento diretto dei mezzi militari di terra e aeronavali italiani? Cioè, quanti uomini potremmo impiegare in una missione i cui rischi a me sembrano terrificanti? Io sono il primo che dice che non possiamo far finta di non vedere Daesh, come lo diavolo si vuole chiamare, sulle coste da cui provengono i flussi degli immigrati. Però, detto questo, ma le forze armate italiane sono in grado davvero di impegnarsi oltre alla missione euronavale in cui impegniamo la Cavour, fregati e pattugliatori per i migranti nel Mediterraneo, anche in una missione di quel tipo in Libia? Tu che pensi? Allora, chiaramente noi bisogna capire cosa fare in Libia, quali sono gli obiettivi chiaramente politici e strategici, e poi adattare di conseguenza il dispositivo militare, perché un conto è impegnarsi in una missione tra virgolette di assistenza, di supporto. Ma lì non sembrerebbe una missione così. E così via. Questo, diciamo, questo è il primo punto. Un conto è fare una missione di sostanzialmente di stabilizzazione, di peacekeeping e di assistenza ad un eventuale fantomatico governo di unità nazionale qualora un giorno questo governo dovesse essere fatto. Un conto è andare lì per imporre mano militari una pacificazione del paese, ed anche in quest'ultimo caso bisogna vedere cosa vogliamo. Dov'è il nostro centro di gravità? Sulla parte costiera della Libia, sulle principali città, su tutto il territorio libico, per cui è difficile anche stabilire che tipo di missione occorre, perché prima bisogna definire gli obiettivi, prima bisogna vedere gli attori e poi si interviene di conseguenza. Ci sarebbe a mio avviso però anche un'opzione diversa, più neutra, ovvero dell'impiego esclusivamente dell'arma aerea, come è stato fatto fondamentalmente nel 2011, sì, quando fu abbattuto il regime di Gheddafi, come strumento, come si dice in gergo, coercitivo, cioè io impiego gli attacchi aerei per far digerire alle parti in causa, che sono nella fattispecie il governo di Tripoli, il governo di Tobruk, per costringerli di fatto a accettare questo benedetto accordo. È un'ipotesi in realtà remota, una cosa simile in parte si è fatta nei Balcani negli anni 90, prima in Bosnia nel 95 e poi in Kosovo nel 99, però io non credo sia tutta questa voglia nemmeno da parte, cioè io non mi vedo l'Europa attuale, non lo so, perché poi so che invece i britannici premono molto e sarebbero pronti invece a intervenire in questa chiave, naturalmente contano anche un po' i diritti petroliferi su il loro utilizzo in Libia, altro che, però detto questo io non mi vedo l'Italia che si mette a bombardare le fazioni in Libia, cioè non lo so, può però essere che io sia cieco, però c'è da sottolineare un elemento: di fatto nel 2011 lo si è fatto. Però noi, come sai, eravamo trascinati dopo aver tentato di dire non ci interessa. Sì, ma alla fine dei giochi noi siamo stati il quarto paese per numero di aerei impiegati, per numero di sortite di attacco effettuate e così via. Gli americani nel 2011 fornirono supporto all'inizio lanciando missili Tomahawk, facendo partecipare alla campagna bombardieri 2 e così via, poi uscirono fuori dalla campagna, e la campagna fu gestita prima sostanzialmente da Francia e l'Inghilterra e poi dalla NATO, e noi in quell'ambito lì abbiamo avuto un ruolo tutt'altro che secondario. Poi naturalmente non aver avuto la minima idea di un nation building dopo ha creato la situazione per cui ecco qui le fazioni islamiste del Daesh misurata e così via. Detto tutto questo, iniziamo a sentire un ascoltatore, poi altri dopo la sospensione sul traffico. Cominciamo con Marco da Bologna. Prego Marco. Sì, volevo dire, ciao Giannino, volevo dire una cosa: secondo me la situazione sul campo è molto complessa, anche perché questa ambiguità degli americani è subito spiegata, secondo me, dal fatto che loro sono sempre schierati con l'Arabia Saudita e comunque sia con i sunniti, mentre sul campo, per esempio, in Iran sono sciiti, no? E quindi secondo me loro non si schierano apertamente, non si schiereranno mai apertamente sul campo. E anche la stessa ISIS, guardiamo l'ISIS, i grandi terroristi, e loro hanno delle armi modernissime, perché non si colpisce chi li finanzia? Perché secondo me non c'è la volontà politica nel farlo. Non lo so, Putin ha comunque avanzato con una bella zampata, rivendicando un ruolo centrale che non aveva da decenni in quell'area, con una cooperazione evidente con l'Iran e con le forme sciite, ovviamente con gli Hezbollah e così via. Quindi Putin una strategia ce l'ha, ecco, questo è poco ma è sicuro. Ha ricevuto a sorpresa il presidente siriano Assad, addirittura al Cremlino ieri, quindi insomma, dimostrando che i russi sono in grado di farlo entrare e uscire oramai con sicurezza da Damasco, che controlla proprio più del 15% del paese. Allora, un minuto di informazione sulle strade e poi abbiamo ancora Dante e Sergio da Cagliari e poi torniamo a commentare le vostre telefonate con Pietro Batacchi. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:48 primi e 15 secondi. Lo spunto è tentare di capire di cosa parlano tra pochissimi minuti al Consiglio Supremo di Difesa, al Quirinale, convocato, di una certa importanza, perché all'ordine del giorno di sicuro c'è l'esame della richiesta che ci fanno innanzitutto gli Stati Uniti di bombardare anche noi in Iraq l'IS, e poi cosa fare in Libia, visto che sembrava che oramai questo accordo fosse fatto tra Tobruk, i governi di Tobruk e le fazioni di Tobruk e di Tripoli, e questa fosse la premessa per un'immediata, praticamente insomma dietro l'angolo, missione militare coordinata dall'Italia in Libia, di cui però noi particolari non li conosciamo. Allora ci interroghiamo dicendo: ma siamo sicuri, ma a cosa saremmo esposti, e così via. Ovvio, la tragedia dei Daesh sotto i nostri occhi, quello che fa Putin idem, però l'Italia, alla luce di quello che è successo nel 2011, bene ci deve pensare. Sentiamo come la pensa Sergio da Cagliari. Sergio, ci sei? Pronto. Eccoci, vai. Ci sono. Vai. Buonasera. Senta, io mi approfitto, anche se c'è, spero che ci sia ancora in collegamento. C'è ancora Pietro Batacchi, l'esperto. Sì. Ma io ho 53 anni e episodi di guerre, oppure finte guerre, ne abbiamo assistite tante, cioè io ne ricordo parecchie. Ovviamente quasi tutte fallimentari. Io quello che non riesco a capire è perché si continua, sia a livello europeo ma anche a livello della NATO, a insistere su questo tipo di atteggiamento, quando forse sarebbe meglio dichiarare guerra, come si è dichiarata guerra al nazismo nel periodo nazismo, e farla finita, cioè sacrificarci se ci dobbiamo sacrificare. Cioè, aspetta, no, voglio capire una cosa, però tu dici contro il Daesh bisogna fare una guerra totale, questo è quello che dici? Eh beh no, ma perché non si risolve, altrimenti non si risolve, ci si altrimenti ci si espone solo con il bilancino, ma non si risolve il problema. Ho capito, aspetta, poi questa cosa la giriamo a Pietro Batacchi. Sentiamo ancora Dante, sempre da Cagliari. Dante, come la pensa? Ciao, buonasera a tutti. Come la penso? Che al di là poi dei grandi, delle grandi strategie che noi del popolo non conosciamo, io penso che un intervento italiano in Libia sia doveroso, ed è anni che noi dobbiamo andare lì. Prima di tutto ci sono tutti gli ingredienti in cui noi siamo bravi, cioè c'è il mare, ci sono le barche dove noi dominiamo noi italiani, quindi potremmo tranquillamente andare lì a iniziare a gestire il problema degli immigrati, quindi arrivare lì nei porti con una missione umanitaria fatta a evitare che muoiano in mezzo al canale, da lì partire con un attacco contro il terrorismo che in Libia Dante, Deo, la fai per così dire facile, no, per carità, tutto si può fare purché si sia consapevoli che poi avvengono delle cose, come è evidente. Allora, come vedi Pietro Batacchi, ma non mi sorprende, i nostri ascoltatori appartengono a opinioni, hanno visuali, hanno convinzioni diverse. Commenta un po' questo fascio di opinioni diverse che abbiamo raccolto. Allora, iniziamo dalla Russia. Qui mi limito ad osservare che Putin può piacere o no, la Russia può piacere o no, però a quelle latitudini mi pare uno dei pochi attori che abbia le idee chiare su cosa fare. Condivido. Purtroppo, ma condivido. Poi, ripeto, può piacere o non può piacere, però loro hanno una strategia che è molto semplice, è quella di sostenere il presidente Assad, che comunque è ancora presidente legittimo della Siria, che comunque ha una forza militare, una forza armata legittima, che è l'esercito siriano, che a parte i primi, diciamo, la prima fase della cosiddetta primavera araba, poi non si è mai di fatto sbandato, non ha mai dimostrato di non essere più emanazione di uno Stato nazionale che è quello siriano, anche perché in Siria, a differenza di un paese come la Libia, per esempio, c'è una, un tradizionale, uno storico veicolo di nazionalità e di coesione statale che è il partito base, sostanzialmente, che è una delle poche cose in Medio Oriente. E quindi Putin ha la sua strategia. Ma veniamo invece all'Italia, che cosa? Alcuni dicono è logico che noi andiamo in Libia e facciamo tutto giusto, altri dicono no, perché se in realtà ci limitiamo ai bilancini, eccetera, non risolviamo il problema, ma lo incaroniamo, per così dire, il problema del Daesh. Tu che dici? Ma io credo che per, diciamo, cultura personale, per quel poco di esperienza personale che ho, è che la mia opinione è che un intervento militare, soprattutto in scenari così delicati, così complessi come quello libico, debba essere valutato in tutti i suoi aspetti, tutti i suoi pro e contro, e debba essere attentamente pesato, anche perché se non si hanno chiari gli obiettivi politici, si vede nel 2011 cosa succede, appunto, si è visto. Esattamente, l'impiego della forza non ha sostanzialmente senso. Prima si faceva riferimento al fallimento delle guerre. Effettivamente è vero, molti degli interventi che l'Occidente ha fatto negli ultimi anni si sono rivelati un fallimento, ma ce ne sono stati anche alcuni che hanno avuto successo. Insomma, la stabilizzazione dei Balcani con le guerre che la NATO ha fatto nel 95 in Bosnia e nel 99 in Kosovo ha sostanzialmente permesso di stabilizzare, di far uscire da una catastrofe come quella della guerra civile della ex Jugoslavia, e questo non ce lo dimentichiamo. In Afghanistan, prima che qualcuno decidesse il ritiro delle truppe, no, sulla base certo, di un'esigenza per vincere le elezioni, no, ma di questo, campo, esatto. Ma su, le cose sostanzialmente malaccio non andavano. Sono andate peggio da quando Obama ci ha vinto le elezioni, ha detto. Purtroppo è così, io non ce l'ho con Obama, però come vedete tutti i calendari di ritiro sono poi stati puntualmente smentiti e la situazione si è incarognita. Allora, io intanto ringrazio Pietro Batacchi per la ragionevolezza con cui uno che di cose militari ne sa davvero, esperto, parla. E rimane l'interrogativo, vediamo cosa capiremo di questo Consiglio Supremo di Difesa. E devo dire, Marco Alessandro pone il problema del problema: ma dove sono gli interessi dell'Italia in questa vicenda? Ecco, il mio problema è proprio questo: farvi riflettere sul fatto che la politica italiana, un dibattito pubblico aperto e chiaro sugli interessi nazionali e strategici dell'Italia, non lo fa mai e rischia sempre di prendere decisioni al traino di qualcuno. E il problema di Marco è proprio il problema di fondo. Ci dicano un po' i politici in cosa consiste l'interesse strategico italiano, poi si vede che cosa fare, ma prima quello. Continuate con Radio 24, appuntamento domattina alle 8:15 con Attenti a noi due con Alessandro Mina, e domani pomeriggio qua alla versione di Oscar.